scrittori, poeti, autori di canzoni, che cosa c'è di più romantico della luna? E voi da quant'è che non la guardate? E cosa pensate quando guardate la luna? Gli occhi degli uomini si sono rivolti verso il nostro unico satellite nel corso dei secoli e, oltre che per fare poesia e per illuminare notti d'amore, anche per immaginare l'infinito oltre i confini della Terra. La Luna esercita una forza di attrazione su noi terrestri. Se pensate che le maree vengono influenzate dalla Luna, se pensate agli astrologi, pensate insomma a quanto è ampia la gamma di intervento della Luna sulla nostra vita. Oggi si guarda la Luna con strumenti tecnologici raffinati, insomma non è più una palla luminosa nel cielo notturno, e se dovesse capitarvi di passare per un osservatorio potreste provare a puntare il telescopio verso la zona centrale della Luna. Bene, centrale leggermente spostata a est per la verità, è il mare della tranquillità, è lì che è ambientata la parte principale della nostra storia. Vi devo avvisare, ci sarà un certo numero di persone che ascolteranno questa puntata che saranno convinte di sentire solo una massa di bugie frutto del più incredibile e fantasioso complotto che la storia ricordi, e forse non ci sarà modo di convincerli, non ci saranno prove tangibili capaci di sovvertire i loro ragionamenti, ma insomma poco importa. Quella che vi racconto oggi è la storia del primo uomo, sempre esclusi quelli che dissentiranno, però del primo uomo che ha messo piede sulla Luna, Neil Armstrong. It's one small step for man, one giant leap for mankind. A small step for man, a giant leap for mankind. Un piccolo passo per un uomo, un balzo enorme per l'umanità. Chissà quanto se l'era preparata, insomma, sta roba da dire, che sarebbe entrata ovviamente nella storia, le parole che il mondo ascolta in diretta il 20 luglio del 1969, pronunciate proprio dal protagonista di oggi, l'astronauta aviatore americano Neil Armstrong, nel momento in cui scende dalla scaletta del modulo lunare e poggia lo scarpone sul suolo della Luna. Tutti quelli della mia generazione si ricordano che cosa facevano in quel momento. Io mi ricordo perfettamente, ero nella terrazza del mio albergo e c'era il più intraprendente dei clienti dell'albergo che aveva portato un televisore sulla terrazza, e quindi quella notte tutti i clienti dell'hotel Primavera di Pescara videro, compreso me, videro Neil Armstrong scendere sul suolo lunare e Tito Stagno dire ha toccato. Quindi insomma momenti che per quelli che hanno la mia età sono stati fondamentali. Bene, lo sbarco sulla Luna, il punto più alto di uno sforzo tecnologico messo in campo dagli Stati Uniti per anni, per motivi in realtà molto poco nobili, molto pratici, intanto competizione tecnologica e bellica con l'Unione Sovietica, un duello a distanza che il presidente Kennedy, che nel frattempo però è stato ammazzato, è riuscito a far diventare nell'immaginario della sua nazione e del mondo lo sforzo verso il sogno del futuro. Qualcuno si chiede perché la Luna? Perché sceglierla come nostro traguardo? Ci si potrebbe chiedere anche perché scalare la montagna più alta? Perché 35 anni fa è stato sorvolato l'Atlantico? Perché la Rice si batte contro il Texas? Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese. Non perché sono semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità. Perché accettiamo di buon grado questa sfida. Non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, insieme a tutte le altre. La nostra storia però non comincia col discorso di Kennedy, quello che ha pronunciato il 12 settembre del 62 alla Rice University. Inizia prima, inizia in un paesino dello stato dell'Ohio dal nome Wapakoneta, il 5 agosto del 1930, il giorno in cui nasce Neil Armstrong. Quando qualcuno è protagonista di imprese eccezionali, si cerca subito nella sua infanzia, nella sua vita in generale, qualche segno di grandezza, qualche presagio e qualcosa che ci faccia pensare che quest'uomo fosse un predestinato. Bene, nella vita di Neil Armstrong sono difficili all'inizio da trovare questi segni, perché lui era l'emblema dell'uomo comune, più nell'atteggiamento in realtà che nelle esperienze di vita. Tipica famiglia della middle class americana, origini tedesche e scozzese, il padre Stephen che fa il revisore di conti per il governo dello stato dell'Ohio, la madre Viola che è una casalinga, insomma una famiglia che come tante è costretta a continui trasferimenti all'interno dello stato per il lavoro del capofamiglia. E sapete, in America si spostano, affittano case, se ne vanno da una parte e dall'altra, 20 città in 15 anni. E così Neil cresce, forse anche per questo, cresce come ragazzino normale, tranquillo, un po' timido. La madre gli instilla la passione per la lettura, gli racconta storie in continuazione, lui impara a leggere molto presto, a 3 anni. Un'altra passione precoce per lui è quella per gli aerei. E qui, insomma, un segno del destino si può intuire, soprattutto ovviamente all'inizio per i modellini da costruire. Sono nato e cresciuto in Ohio, ad un centinaio di chilometri a nord di Dayton. Le storie sulle imprese dei fratelli Wright e l'invenzione dell'aeroplano albergano in me da un tempo immemorabile. In principio ero concentrato solo sulla costruzione degli aerei e non sul volo, anche perché un aeromodello, se non è costruito bene, non vola. Quello che sembra interessarli maggiormente è la meccanica del volo, il funzionamento degli aerei. È una passione che i genitori alimentano, che porterà il nostro protagonista a volare per la prima volta quando è molto giovane. A 6 anni il padre lo accompagna a una fiera. Ecco il suo racconto. Una domenica mattina stavamo andando, o almeno sua madre così credeva, al catechismo, ma c'era la possibilità di fare un giro in aeroplano, che al mattino costava poco, mentre il prezzo aumentava nel corso della giornata. Perciò saltammo la lezione di catechismo e andammo per la prima volta a volare. Per la cronaca, l'aereo in questione è un trimotore della Ford del 1928, sedili in vimini, aereo che trasporta fino a 12 passeggeri, velocità massima 120 miglia orarie. Il primo volo da passeggero sarà un'esperienza indimenticabile per il ragazzino Neil. Per anni riempirà la sua cameretta coi modellini che costruisce lui stesso. A 15 anni comincerà a prendere lezioni di volo, $9 a lezione, i soldi che lui si guadagna con qualche lavoretto. E a 16 anni, 15 giorni dopo il limite legale, lui prende il primo brevetto da pilota. Non può guidare un'auto, ma può già pilotare un aereo. E dopo il college, Neil si iscrive alla Purdue University, facoltà di ingegneria, il 4 ottobre 47, un mese dopo, il primo pilota della storia, il capitano Charles Yager, romperà la barriera del suono per la prima volta. Armstrong, anni dopo, volerà con lui. Intanto non paga la retta perché partecipa a un programma nell'ambito del quale, dopo 2 anni di studi, i candidati si impegnano a prestare 3 anni di servizio militare e quindi la laurea viene posticipata. Entra in marina nel 49, viene addestrato al volo per 18 mesi, impara a atterrare e a decollare dalle portaerei, che non deve essere una roba semplicissima. A 20 anni, quando ottiene la qualifica di aviatore della marina statunitense e viene assegnato a una squadriglia di jet, poi viene promosso tenente, salpa con la portaerei Essex in direzione Corea, perché lì c'è la guerra, gli Stati Uniti sono in guerra con la Corea, partecipa a missioni di ricognizione, anche di bombardamenti. Durante una di queste missioni sta bombardando a bassa quota, il suo jet viene colpito dalla contraerea nemica, cerca di riprendere controllo, urta un cavo a 6 metri dal suolo e si salva attivando il sedile eiettabile, quello che ti spara fuori, cade in territorio amico, se la cava con una frattura al coccige e insomma ma rischia grosso. E nel corso della guerra parteciperà a 78 missioni, 121 ore di volo, quindi grande esperienza e soprattutto grande freddezza ci vuole in quei momenti, e la freddezza gli servirà più avanti. E riceve la Air Medal e la Gold Star, che sono due importanti decorazioni. Lascia la marina nel 52 quando ha 22 anni e si laureerà 3 anni dopo in ingegneria aeronautica. E nel frattempo la ricerca legata al volo sta facendo passi da gigante, gli Stati Uniti investono in nuovi centri d'avanguardia e l'ingegneria sta spingendo questa nuova era. E insomma, Armstrong è un ingegnere e un volatore e molto adatto per essere, anni dopo, il primo uomo a conquistare la Luna. Sono e sarò sempre un ingegnere un po' nerd, con i calzini bianchi e il portapenne da taschino, nato grazie al secondo principio della termodinamica, imbevuto di tabelle di vapore, innamorato dei diagrammi a corpo libero e trasformato da Laplace e alimentato da un flusso comprimibile. Come ingegnere sono davvero molto orgoglioso dei successi ottenuti nell'esercizio della mia professione. Adesso si è laureato ed è diventato pilota di velivoli sperimentali. La base è Edwards in California. Lui lavora per la NACA, la NACA si legge, che è l'antesignana della NASA. Nel 56 ha un altro incidente di volo, il primo di una lunga serie, diciamo, da civile. Spesso quegli aerei hanno problemi meccanici perché siamo ancora agli inizi. Ma Neil se la cava sempre, atterraggi di fortuna, manovre dell'ultimo istante, insomma sangue freddo e forse anche un po' di fortuna. Pilota soprattutto gli aerei razzo, si chiamano X-15, volano in quella porzione di cielo che c'è tra l'atmosfera e lo spazio, siamo a 100 km d'altezza. Nel frattempo molto più in basso c'è la vita da vivere e lì lui conosce una donna, Janet Elizabeth Sharon, e la sposa nel 56 avranno 3 figli. Siamo alla fine degli anni 50, è partita la corsa 2 allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. È un duello a distanza, le due superpotenze che gareggiano a chi è più forte, perché c'è in gioco molto di più che qualche viaggio per lo spazio. Nel 58 Armstrong è già inserito nel programma Man in Space Soonest dell'Air Force americana, è consulente per il Boeing X-20 di Nassau, che è uno dei primi veicoli spaziali progettati, è indicato come uno dei 6 piloti candidati a pilotarlo. Poi in realtà questo aereo costerà $660 milioni, ma non verrà mai realizzato. Insomma, ormai la carriera di astronauta di Armstrong è una strada inevitabile, però nel frattempo la prima mossa spettacolare nella corsa allo spazio è dei sovietici, che dopo aver già mandato nello spazio la cagnetta Laika, della quale abbiamo parlato, questa volta mandano un cosmonauta. Siamo nell'aprile del 61, Yuri Gagarin diventerà famoso, consegnato a imperitura memoria per essere il primo uomo nello spazio, e gli americani perdono in volata perché un mese dopo nello spazio ci andrà Alan Shepard. Nel giugno del 63 i russi mettono a segno un altro colpo, la prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova, è un'operaia, quindi insomma anche la propaganda si fa sentire, un'operaia sovietica che va nello spazio. 2 anni dopo toccherà proprio Armstrong andare nello spazio con la Gemini 8, è un'operazione spaziale molto complessa, la più complessa fino allora, missione che peraltro sarà un parziale fallimento, ma proprio da quegli errori gli americani impareranno, costruiranno la strada per la Luna, e perché sta per partire il programma Apollo. Il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un uomo normale che la storia la scriverà perché è normale nella vita, ma eccezionale nel suo lavoro. E stiamo raccontando il primo essere umano che guarderà la Terra dalla superficie della Luna, Neil Armstrong, ingegnere astronauta americano che è protagonista della storica discesa sulla superficie del nostro satellite. Abbiamo lasciato il nostro uomo all'inizio degli anni 60 nel pieno della competizione spaziale tra Stati Uniti e Unione Sovietica, una corsa che ha in palio la Luna, ma solo apparentemente. In realtà stiamo parlando di una gara tecnologica che serve soprattutto, e va detto, per lo sviluppo dei razzi vettori, dei missili intercontinentali, quelli che monteranno le testate atomiche e quelle capaci di portare l'umanità all'estinzione. Quindi in realtà si parlava di nuove frontiere, di speranze, eccetera, eccetera, e questi, con la scusa della Luna, stavano progettando il modo di mandarsi dei missili atomici da Mosca a Washington e viceversa. Comunque, la pedina di questo scenario è lui, Neil Armstrong, che nel 62 ha 32 anni, lui sta pilotando velivoli sperimentali che arrivano a sfiorare le stelle, però nella vita è un uomo tranquillo, è sposato e semplicemente ha un lavoro ben fuori dal comune. Nel frattempo frattempo però quest'uomo normale vive una tragedia, perché nel gennaio di quell'anno la figlia Karen ha 2 anni, muore per le conseguenze di un cancro. Si realizza insomma l'incubo peggiore per ogni genitore. La reazione di Armstrong è quella di allontanarsi dalla famiglia, di mettere dello spazio tra sé e quel dolore insopportabile. Potevo rimanere a pilotare l'X-15. Stavo anche lavorando al Dinosaur, che era ancora sulla carta, ma era comunque una possibilità. E poi c'era l'altro progetto a Houston, il programma Apollo. E l'Apollo era così irresistibilmente entusiasmante che decisi di rinunciare alle altre 2 opzioni per inseguire quel sogno, anche se sapevo che avrebbe potuto essere irrealizzabile. Il programma Apollo nei progetti della NASA è l'atto finale, è quello che porterà l'uomo sulla Luna. Per Neil, in realtà, anche lo dice anche la sorella June, per Neil il programma Apollo è il modo per non pensare alla sua tragedia personale. Lui investe tutte le sue energie emotive e anche fisiche in qualcosa di concreto. Peraltro il programma Apollo comincia malissimo, comincia con una delle più grandi tragedie della storia dell'astronautica, della NASA. Il 27 gennaio del 67, mentre l'equipaggio è nel minuscolo modulo di comando per un test, scoppia un incendio. Gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee muoiono bruciati nel giro di 15 secondi. Questa potrebbe essere la fine del programma spaziale, però in palio c'è molto di più che 3 vite, e quindi si va avanti, prima con delle missioni Apollo senza equipaggio e poi con astronauti a bordo. Il 16 luglio del 1969, sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, siamo in Florida, è tutto pronto. Montata su un razzo Saturn c'è la navicella spaziale Apollo, che è pronta per la missione più importante e più pericolosa della storia dell'uomo, 7 anni dopo il discorso storico del presidente John Fitzgerald Kennedy. 9:32, ora locale, sono le fasi finali del countdown, l'apice dello sforzo durato anni, uno sforzo che ha impiegato oltre 400.000 persone. Al comando c'è lui, Neil Armstrong. Se tutto andrà bene, sarà lui il primo a scendere sulla Luna. Al suo fianco ci sono Buzz Aldrin e Michael Collins. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Nelle fasi di lancio ci sono gli strumenti di bordo che stanno seguendo il ritmo cardiaco degli astronauti. Il cuore di Armstrong raggiunge i 110 battiti al minuto. Nella navicella c'è un rumore assordante, vibrazioni spaventose, ma loro sono allenati, tutto va bene, c'è 1 milione di persone a vederli partire, 25 milioni di persone in televisione solo negli Stati Uniti. Il razzo Saturn spingerà verso l'alto l'Apollo 11 e 12 minuti dopo la navicella spaziale entrerà nell'orbita terrestre. Per noi tutto questo veniva raccontato da Ruggero Orlando, mi piace ricordarlo perché era un grande uomo, un grande esperto. Il razzo vettore staccherà, era molto caratterizzante. Insomma, un'orbita e mezza, poi i motori del terzo stadio spingono la navetta sulla traiettoria verso la Luna. Ci vogliono 3 giorni per raggiungere il nostro satellite. L'Apollo 11 passa dietro alla Luna, accende il motore di servizio per entrare nell'orbita lunare e il veicolo spaziale compie 30 giri attorno al satellite. Intanto gli astronauti possono osservare nel dettaglio il luogo previsto per l'allunaggio, il cosiddetto mare della tranquillità. Alle 12:52, ora di Greenwich, Armstrong e Aldrin entrano nella navetta Eagle, il cosiddetto LEM. Iniziano i preparativi per la discesa lunare. L'Eagle poco dopo si stacca dal modulo di comando, lascia da solo Collins, che è il terzo astronauta, quello che dal suo finestrino osserva il LEM, ne verifica l'integrità e poi girerà girerà attorno alla Luna, aspettare gli altri due. Collins è quello che deve accertarsi soprattutto che le gambe d'atterraggio siano correttamente dispiegate. È tutto a posto. Armstrong esclama: Eagles has wings, l'aquila ha le ali. È il momento dell'ultima fase, l'allunaggio. L'umanità è un passo da un momento storico, ma qualcosa può ancora andare storto. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Il modulo lunare Eagle con a bordo Neil Armstrong e Buzz Aldrin sta scendendo verso il suolo della Luna. E fino a quel momento non ci sono stati troppi intoppi, però se ci fosse un problema in quella fase la missione sarebbe compromessa, ma soprattutto la vita dei due astronauti potrebbe essere appesa veramente a un filo. Il nostro pilota automatico ci stava portando verso un grosso cratere, più o meno delle dimensioni di un grande stadio, che aveva dei profondi pendii coperti da rocce enormi, grandi come automobili. Non era il tipo di posto in cui avresti voluto atterrare. Nell'Eagle in più si accende un allarme che indica un'attività anomala del computer di bordo. Non sembrano esserci avarie, insomma la discesa prosegue. Armstrong disattiva il pilota automatico, prende i comandi per riportare il modulo in una zona più sicura. Gli occhi del mondo stanno guardando le immagini del suolo lunare che si avvicina, ascoltano le comunicazioni tra il centro di controllo sulla Terra e gli astronauti nel modulo di allunaggio. Qui Tranquility Base, l'Eagle è atterrato. Sono le prime parole di Armstrong quando le gambe d'atterraggio hanno toccato il suolo. E ve lo dicevo prima, Tito Stagno ad urla per gli italiani in quella notte d'estate: ha toccato. Da Houston commentano: avete fatto diventare blu un po' di gente qui, stiamo respirando di nuovo. Qualche ora dopo Neil Armstrong comincia a scendere lungo la scaletta dell'EMA. Alle 2:57 poggia il piede sinistro sulla superficie della Luna e pronuncia la famosa frase: It's one small step for man, one Ho pensato, quando scenderò dovrò solo fare un piccolo passo, scendere da lì a lì. Ma poi ho pensato a quelle 400.000 persone che mi avevano dato l'opportunità di fare quel passo e ho pensato che sarebbe stato qualcosa di grande per loro e probabilmente anche per molti altri che non erano coinvolti nel progetto. Quindi era una semplice correlazione, ho pensato. Mezzo miliardo di persone stanno guardando la TV in quel momento, un settimo della popolazione mondiale di allora, e gli occhi di tutti sono rivolti alla Luna. E per la prima volta, però, in un certo senso quegli sguardi sono ricambiati. La Terra è bellissima vista dallo spazio. Dalla Luna sembra piuttosto piccola e lontana, ma è tutta blu e coperta da strisce di nuvole. I continenti si distinguono bene, anche se da quella distanza i colori sono un po' spenti. Insomma, ce l'hanno fatta. Pensate quante cose terribili avrebbero potuto succedere. Loro che arrivano col carburante al pelo, loro che ripartono, riescono a ridecollare, riescono a ricongiungersi con la navicella, con Collins che li stava aspettando, riescono a rientrare nell'atmosfera. Un altro mio ricordo da bambino è la paura che loro sbagliassero l'angolo di rientro e si disintegrassero, oppure sbagliassero nel senso opposto e rimbalzassero e finissero perduti nell'infinito. Con quei 3 minuti di pausa nei quali non funzionava la radio, e che diventarono più di 3 minuti, quasi 4, e con tutto il mondo appeso alla ansia di non sentirli parlare mai più. Insomma, mille cose potevano non funzionare, per fortuna hanno funzionato tutte cose che ovviamente erano state provate, ragionate, ma tutte provate in astratto e non sul campo. Insomma, ce l'hanno fatta, e 8 giorni dopo la partenza da Cape Canaveral Canaveral, l'Apollo 11, è tornato sulla Terra, è ammarrato nell'Oceano Pacifico, gli astronauti vengono recuperati e le loro facce diventano famose in tutto il mondo, soprattutto quella di Neil Armstrong, il cui nome è indissolubilmente seguito dalla frase «è il primo uomo sulla Luna». Ma lui non sfrutta come potrebbe la celebrità che ha acquisito. Nel 71 abbandona la NASA, si dedica all'insegnamento, entra nel settore privato, si siede in diversi consigli di amministrazione di aziende importanti. Insomma, certo è una persona molto intelligente, ma è anche un uomo immagine. Rifiuta le offerte di fare politica che arrivano sia dai democratici che dai repubblicani, ma lui non è una star, rimane quell'ingegnere dall'aria fredda e riflessiva che è sempre stato, un uomo che non genera grande simpatia, lo descriveva così Oriana Fallaci, che l'aveva intervistato prima della missione dell'Apollo 11. Chiunque te lo descriverà come a cold calculating guy, un tipo freddo, calcolatore. Il suo modo di pensare e di vivere è rigido quanto una operazione aritmetica. Tutto in lui è calcolato come dentro un computer e fra i 52 astronauti americani è colui che più di ogni altro possiede la virtù del robot. Vale a dire, assenza di passioni, ordine e legge, controllo, nessuna fantasia. Se l'umanità del futuro sarà un esercito disciplinato di creature asettiche e cervelli elettronici, Neil Armstrong è già il futuro. Niente lo interessa fuorché volare, conoscere le macchine che servono a volare. Dal 2002 Armstrong decide di non firmare più autografi perché si è accorto che quelle firme alimentano un vero e proprio mercato. Dopo 38 anni di matrimonio, divorzia da Janet e peraltro entra in una statistica particolare. 13 matrimoni su 21 degli uomini mandati sulla Luna sono finiti in divorzi, ma anche, credo, 13 matrimoni su 21 di quelli che vanno allo stadio o quelli che pagano un casello di autostrada ormai. Neil Armstrong muore il 25 agosto del 2012 per le complicazioni dopo un intervento di cuore e per sua volontà le sue ceneri saranno disperse nell'Oceano Atlantico dopo una cerimonia solenne sull'incrociatore SS Philippine Sea. La storia ricorda spesso gli autori delle grandi imprese come eroi straordinari e invece noi oggi abbiamo raccontato la vicenda di un uomo dalle grandi doti, ma un uomo profondamente normale, quello che potremmo definire un anti-eroe. I suoi colpi d'ala però l'hanno portato più in alto di tutti, più lontano di tutti. Forse il suo segreto è stata la sua normalità e forse è stato anche il segno della potenza dello sforzo collettivo. L'abbiamo detto, centinaia di migliaia di persone che hanno lavorato anni per mandare l'uomo sulla Luna. Questo meraviglioso sogno di sapere che qualcuno su quel satellite così suggestivo c'è stato, ecco, questo sogno rimane e rimane vissuto in prima persona da un uomo normale per certi versi. A domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.